Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti voi e bentrovati, Deborah. Eccomi presente. Allora, senti, io voglio condividere con te, con i nostri ascoltatori, un video che sta diventando virale su Twitter. Cos'hai e trovato? Che ritrae il giocatore della Roma Strootman. Io l'ho capito dopo che era un giocatore, comunque. Davanti ad sì, una diciamo lavatrice. Che il calcio non è proprio la nostra materia portante. Bene, il calciatore ha girato questo video, pensa, per ringraziare i tifosi per tutto il supporto dimostrato nei suoi confronti. È un centrocampista, Sì. Per dare, speriamo ecco, di non dire delle sciocchezze. Ecco, perché sennò Carlo Genta ci ammazza. E ha giocato sul suo soprannome che gli era stato dato ai tempi di Garcia, la lavatrice. Bene, comunque, tutto questo per dirti che fare il bucato è una vera e propria passione che ha fatto nascere un fan club che conta oltre 3.000. Mi vado ad iscrivere subito. Ci sono degli incontri, pensa, annuali con le persone che arrivano un po' da tutto il mondo e che si raccontano come si fa il bucato. Tu sei pronta? Io sono prontissima, l'ho fatto ecco, pure ieri sera. Perché adesso che guarda, noi andiamo in trasferta. Esatto, ecco. Qua le lavatrici vanno, che è una bellezza. Ci faremo il bucatino. A proposito di lavaggi, lavatrici, una bella lavata di capo. Senti invece che notizia ti ho portato io questa mattina. Se la deve aspettare il commercialista che non paga regolarmente le tasse per conto del contribuente suo cliente. Ah. Attenzione, perché è in arrivo la bozza del codice delle sanzioni disciplinari che verrà adottato presto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. In questo periodo per la categoria c'è davvero molto lavoro da fare, quindi però questo non li giustifica. Non dimenticatevi di pagare le tasse dei vostri clienti, perché sennò arrivano le mazzate. Ascoltate Cuore Denari, perché quando esatto. È il momento diventa difficile, noi vi supportiamo, vi accompagniamo. Anche gli architetti, vero Deborah? Assolutamente, sono in cima alla lista delle nostre preoccupazioni loro. Prima o poi la dovremmo raccontare, la morale del commercialista. Intanto raccontiamo un po' la borsa questa mattina. Era partita di nuovo molto male, abbastanza male. Gli indici perdevano più di mezzo punto. Anche ieri, dopo una partenza positiva, hanno chiuso male. Ieri sera ha chiuso male Wall Street. Adesso il quadro è negativo, un po' meglio rispetto all'apertura. Meno 0,16% per il FTSE MIB a Piazza Affari. I titoli che trascinano giù Milano sono Fineco e Telecom, che perdono l'1,6%. Ferrari meno 1,24%. Più di un punto di calo per Salvatore Ferragamo, Banca Mediolanum e Banco Popolare. In rialzo abbiamo, con 2,5 punti, SPM, Fiat guadagna 2 punti, Exor più 1,68%, Pop Emilia Romagna più 1,44%. Abbiamo delle notizie che riguardano per esempio Unicredit, molto in movimento, si immagina il mercato un ribaltone ai vertici che potrebbe arrivare presto con l'uscita di scena dell'amministratore delegato Federico Ghizzoni. E poi stamattina abbiamo avuto buoni dati dal Giappone con un buon andamento del PIL giapponese, oggi arrivano molti dati dagli Stati Uniti, il petrolio viaggia ai massimi da 8 mesi. È evidente che non possono esserci tassi negativi in eterno, lo dice in un'intervista all'Handelsblatt il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco. Intanto, a proposito di tassi di interesse più che negativi, vantaggiosi, abbiamo le indicazioni che sono arrivate dal bollettino mensile dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, che ha fatto sapere che grazie ai tassi ai minimi storici, i mutui e i prestiti continuano a crescere. Lo scorso mese i prestiti alla clientela erogati dalle banche che operano in Italia hanno raggiunto la cifra record di 1.820 miliardi di euro. Attenzione adesso a non farla diventare questa l'ennesima bolla italiana. Relativamente ai tassi applicati ai mutui, l'ABI fa sapere che il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni si è attestato al 2,30%, toccando il nuovo minimo storico. A proposito di case ed abitazioni, sa tra poco, dopo le 11, questo sarà il tema che affronteremo con un notaio e cercheremo di capire come devono comportarsi le nuove coppie che si formano secondo le nuove regole delle unioni civili con le case e i mutui. Equitalia apre più 65, il nuovo servizio per i contribuenti un po' più avanti con gli anni. È il nuovo servizio appunto di Equitalia, messo a disposizione dei cittadini che hanno un'età superiore a questa cifra. Il lancio è in via sperimentale, è avvenuto a Roma appunto, inoltre in altre 10 città: Firenze, Treviso, Pordenone, Cuneo, Cagliari, Viterbo, Benevento, Campobasso, Matera e Bari. È un progetto che è stato fortemente voluto dall'amministratore delegato del gruppo, Ruffini, e vuole essere una sorta di corsia preferenziale riservata ai più agé e ai loro coniugi, quindi uno spazio dove poter ricevere assistenza più mirata rispetto all'esigenza appunto di questo tipo di contribuenti. Naturalmente potete andare sul sito di Equitalia all'interno dello sportello amico, dove potete naturalmente leggere anche tutti gli orari di apertura del nuovo sportello più 65. Parte domani la 17ª edizione dell'Investment and Trading Forum, l'IT Forum di Rimini. È il primo evento nazionale indipendente, gratuito, dedicato al mondo degli investimenti. Lo abbiamo ricordato tante volte, questa settimana lo rifacciamo anche oggi, perché ci sarà Radio 24, ci saremo noi di Cuore Denari, Nicoletta siamo pronti a partire, ci sarà Focus Economia, Effetto Giorno, e per il consueto spazio in cui vi segnaliamo da qualche giorno gli appuntamenti legati al mondo dell'educazione finanziaria, ve ne segnalo due che si svolgeranno a Rimini. Domani si parlerà per esempio di busta arancione, in un incontro che parte alle 9.30, come leggerla e quali soluzioni per il futuro. Sempre domani dalle 11 alle 12 un'altra interessante tavola rotonda su investire in un mondo di tassi negativi, una bussola per il risparmio. E per la rassegna stampa di Cuore partiamo da una notizia che arriva dal Massachusetts General Hospital di Boston. È stato eseguito il terzo trapianto di pene al mondo, dopo una prima esperienza in Cina e una seconda in Sudafrica. In questo caso specifico il trapianto è stato eseguito per una rara e grave forma di cancro del pene. Questa notizia difficilmente può passare sotto silenzio, sebbene questo non sia appunto il primo caso al mondo. Il rischio però è che venga interpretata in modo boccaccesco, mettendo alla berlina l'importanza scientifica, clinica e umana al tempo stesso. Questo perché l'intervento di trapianto del pene è proprio un'espressione della scienza chirurgica, direi a tutto tondo in primis. Ogni anno infatti moltissimi uomini affetti da tumore del pene sono di necessità sottoposti ad un intervento di penectomia, ovvero di asportazione totale dell'asta peniena, e questo si rivela essere un intervento salvavita, perché il tumore del pene, lo abbiamo tante volte detto e sottolineato a Salute Uomo, il nostro appuntamento mensile per la salute del maschio, è un tumore molto difficile da curare. Al pari è stato ipotizzato che questo intervento possa diventare di grande importanza per tutti quegli uomini che, per motivi traumatici, in esiti di guerra o di altro, potrebbero dover subire la perdita di un organo fondamentale non solo per la virilità. Dalla ricerca italiana arriva invece la speranza di un nuovo approccio contro il piede diabetico. È una complicanza cronica che colpisce il 15% delle persone con diabete. Lo studio è pubblicato su Diabetologia, firmato dagli esperti del Mario Negri e della Multimedica, e fa luce sui fattori scatenanti del piede diabetico a livello microvascolare. Chi ha la persona con diabete infatti presenterebbe un difetto di circolazione delle arteriole. Questo impedirebbe i taglietti alle ulcere di guarire in breve tempo. Da qui, secondo i ricercatori, si può partire per nuove cure, nuovi farmaci. In attesa di ulteriori sviluppi rimangono sempre valide le regole di prevenzione, ad esempio non girare a piedi nudi in casa, indossare calze o calzini di cotone, soprattutto non strette, prive di cuciture, scegliere scarpe piuttosto larghe, lavare i piedi con acqua calda e soprattutto asciugarli con attenzione. E soprattutto la persona con diabete deve controllare spesso che sulle piante dei piedi siano integre, e quindi per evidenziare precocemente eventuali tagli, piccole ferite o arrossamenti o piccole abrasioni. E continuiamo a giocare in casa, perché arriva sempre dalla ricerca italiana uno studio che mette in relazione il consumo di alcol e ipertensione. Ne abbiamo parlato proprio ieri in occasione della giornata per l'ipertensione. Bene, secondo un lavoro condotto dall'Università di Udine, dal professor Secchi, presentato a New York dalla Società Americana dell'Ipertensione, anche un consumo di alcol quotidiano di piccole entità, stiamo parlando tra i 30 e 40 mm, può danneggiare il cuore degli ipertesi, e per questo motivo sarebbe utile ridurre l'uso di bevande alcoliche al fine di prevenire complicazioni cardiologiche in queste persone. Allora, se le bevande alcoliche sono un fattore di rischio, la buona notizia è che non mancano gli amici invece. Ad esempio, i probiotici aiuterebbero a tenere sotto controllo la pressione, quanto affermano dei ricercatori australiani che hanno evidenziato come l'uso per più di 8 settimane di un mix di probiotici ben fatto, che garantisca l'assunzione quindi di un certo numero di ceppi batterici vivi ogni giorno, è in grado di ridurre significativamente la pressione arteriosa nei soggetti ipertesi. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Per i ricercatori dell'Università di Rotterdam sarebbero le persone che hanno un gene collegato ai capelli rossi e alla pelle chiara. Deborah, io te sono tagliate fuori. Niente. Comunque, gli esperti hanno analizzato il DNA di 2600 olandesi e hanno stimato l'età di questa persona in base alle fotografie dei loro volti. Bene, le persone con il gene in questione, che ha una sigla naturalmente, MC1R, sembravano tutte più giovani. Ma attenzione, c'è anche il rovescio della medaglia, c'è sempre. Infatti una variante dello stesso gene può ottenere l'effetto contrario e far sembrare più anziani, avere un aspetto un pochino più vecchieggiante. Allora, per chi non possiede questo gene, come noi, ma comunque il desiderio di avere una pelle curata, giovane, il consiglio è quello naturalmente di tenerla bene, di occuparsi della propria pelle, magari facendo uno scrub per rimuovere le cellule morte e ridare così un aspetto fresco e luminoso. Per farlo nel modo giusto ci facciamo guidare dalla nostra esperta, la dottoressa Adele Sparaviglia, dermatologa. Buongiorno e benvenuta, dottoressa. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, noi adesso siamo già in ritardissimo, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Dottoressa, in un minuto, poi facciamo un approfondimento sul nostro sito. Ci racconta che cosa bisogna fare? 30 secondi? Allora, in 30 secondi, non vi fidate delle ricette casalinghe sul web. Sono delle vere e proprie ricette di cucina che danno origine a tre tipi di stress sulla nostra pelle: meccanico, chimico e sul pH. Allora, sulla nostra pagina di Cuore Denari troverete le indicazioni della dottoressa Sparaviglia, strade e poi la linea. Grazie. Cuore e Denari. È la campanella che usiamo anche per la nostra scuola di risparmio del giovedì, ma oggi parliamo invece di scuola tradizionale. Parliamo di ripetizioni, perché lo ricorderete, questa notizia ve l'abbiamo raccontata proprio nei giorni scorsi. La Fondazione Luigi Einaudi ha realizzato una ricerca su scuole ripetizioni private, quanto vale il mercato nero delle ripetizioni scolastiche, una inchiesta che ha avuto grande risalto in rete e nella carta stampata, perché naturalmente le famiglie sono molto sensibili su questo argomento. Noi abbiamo voluto approfondire il contenuto di questa indagine, soprattutto per capire che obiettivo ha, e poi cercheremo anche di fornire alle famiglie preoccupate per tutto quello che devono spendere in questa fase dell'anno, visto che si sta andando peraltro verso gli esami, quindi bisogna correre ai ripari con qualche materia. Il tema è cercare anche qualche soluzione per risparmiare un po', perché non solo questo è un mercato in nero purtroppo, ma insomma un'ora di ripetizioni, soprattutto in certe materie a seconda del professionista che si sceglie, è un'ora anche particolarmente onerosa. Pietro Paganini, direttore generale della Fondazione Einaudi, buongiorno e benvenuto a Cuore Denari. Buongiorno a voi. Lei fa sempre buongiorno. Un sacco di trasmissioni in Rai da un sacco di parti. A Cuore Denari ancora non avevamo avuto il piacere di averla. È contento? Contentissimo. Allora, perché avete voluto fare questa inchiesta? Chiedo anche ai nostri ascoltatori velocemente di raccontarci se state provvedendo a pagare delle ripetizioni di fine anno ai vostri figli, a chi vi siete rivolti, quanto vi costa, in quali modalità pagate, perché il tema del sommerso è centrale. Paganini, perché questa inchiesta? A che cosa volete arrivare? Beh, prima di tutto i suoi ascoltatori di farlo anonimamente, perché sennò sono compartecipi di un'evasione. Ma noi non siamo dei delatori, dico il nome, basta, di chi ce lo racconta, non è che facciamo risalire, non tradiamo. Guarda come se la ride. Non tradiamo, non vogliamo mica tradire la fedeltà dei nostri amici. Paganini, andiamo. Guardi, lo scopo nostro era semplice e duplice. Il primo, mettere in risalto che se ci sono le lezioni di ripetizione nelle ore pomeridiane, significa che c'è un problema all'interno della scuola, vuol dire o che i ragazzi sono stupidi, la maggior parte, perché parliamo di 500.000 persone che si avvalgono delle lezioni e noi non crediamo che sia questo il caso, o c'è un problema a livello di didattica e di insegnamento. Quindi questo lo volevamo evidenziare chiedendo appunto che si intervenga su questa fase. La seconda elemento che evidenziamo è il fatto che le lezioni appunto che vengono prese nel pomeriggio sono lezioni che nel 90% dei casi sono dati molto grezzi, perché poi quando si parla appunto in chiave anonima e in chiave di fisco le risposte sono sempre un po' così, esatto, le... e abbiamo un 90% che avrebbe dichiarato, ammesso di pagare le lezioni in nero, quindi significa che la maggior parte degli insegnanti riceve denaro in nero, che mette anche in evidenza un altro fatto, che siccome apparentemente i nostri insegnanti sono i meno pagati, tendono ad arrotondare con le lezioni pomeridiane. Tra l'altro c'è anche una ricerca non nostra dell'OCSE che evidenzia come gli studenti italiani dalle medie alle superiori sono, dopo i russi, quelli che stanno più ore sui libri nel pomeriggio. Infatti, perché molte scuole invece risolvono tutto durante il tradizionale orario scolastico e non infieriscono poi nelle altre ore sugli studenti. Quanto spende Paganini mediamente una famiglia? Quanto costa allora una lezione privata? Ma noi abbiamo fatto una media anche qua, sempre da prendere con le pinze, perché per la ragione che adesso vi spiego, noi abbiamo calcolato all'incirca un 27 euro all'ora, dove si va chiaramente da lezioni prese con insegnanti di licei che si aggirano anche, da quanto ci è stato riferito, intorno alle 50 euro all'ora, a lezioni da 10 euro. E certo, perché se te le fa un ragazzo magari che invece a scuola va molto bene, che fa la seconda liceo, è in grado di fare ripetizioni magari anche a qualche suo coetaneo, è chiaro che qua il costo è molto inferiore, no? Ma il tema è Paganini, ma se anche un insegnante volesse mettersi in regola con il fisco, come potrebbe farsi pagare per questa prestazione professionale? Questo lo dovrebbe chiedere a un commercialista, nel senso che dovrebbe mettere una ricevuta e o quindi o prestazioni occasionali, oppure avere una partita IVA che non sia in conflitto con se è un insegnante di ruolo con il suo ruolo. Però, come dicevamo, ci sono anche ingegneri appena laureati che, non avendo il lavoro, vanno a fare ripetizione. Insomma, è un mercato, ahimè, frastagliato. Poi c'è quello cosiddetto conflitto enorme, a mio avviso, conflitto di interessi, dove lei si trova, che l'insegnante della scuola della sezione B dà lezioni allo studente della sezione A e viceversa, la sezione A va con l'insegnante della sezione B. Quindi queste sono anche forme, se vuole, a nostro avviso, quasi di ricatto. Per cui in realtà però, Paganini, la interrompo perché ho solamente due minuti di tempo e voglio sentire l'ultima testimonianza a cui abbiamo chiesto appunto un aiuto. Una soluzione c'è, la offre il mondo digitale e tecnologico. Ci sono delle piattaforme digitali per le ripetizioni, una di queste è Applix Education. Abbiamo con noi il CEO, l'amministratore delegato Emanuele Putignano, che salutiamo, una realtà che si occupa di ripetizioni online. Putignano, che cos'è Applix Education? Chi si può iscrivere attraverso la vostra piattaforma? Ed è un modo anche per risolvere il problema denunciato dalla Fondazione Einaudi, far emergere dal nero questo sommerso nel mondo delle ripetizioni? Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e confermo sì che Applix Education ha proposto una soluzione di ripetizioni online ormai da alcuni mesi, con l'obiettivo proprio di rispondere ad alcune dei temi che la Fondazione Einaudi ha sollevato. Il tema del costo, per esempio, su piattaforme come la nostra viene ridimensionato decisamente, fino ad arrivare ad una riduzione fino al 50%. Una ripetizione, il costo orario di una ripetizione su Bsmart Tutors parte dai 16 euro all'ora. In realtà l'obiettivo principale è anche quello di garantire un servizio di alta qualità attraverso dei professori che per la maggior parte, confermiamo, vengono dalla scuola. Non c'è invece quel problema di conflitto di interessi rispetto ai professori della stessa scuola. I tutor sono online e quindi è abbastanza stravagante se dovessimo trovare magari l'insegnante della stessa scuola dove va nostro figlio, magari quello che appunto è nella sezione vicina. Purtroppo devo chiudere, ma Putignano e Paganini, ci ritorneremo su questo argomento sicuramente presto. Intanto, per tutti interessati, andate un po' a fare una verifica su come funziona questa applicazione, se può essere di aiuto sia al vostro portafoglio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. Cuore e denari. Te lo leggo negli occhi. stai soffrendo. E siamo tornati insieme, parliamo di una prospettiva diagnostica molto interessante. Corpi anomali nella retina potrebbero segnalare il rischio di sviluppare l'Alzheimer, quindi basterebbe un esame dell'occhio non invasivo e poco costoso ad individuare la malattia in fase preclinica, quindi prima ancora che si manifestino i sintomi della demenza. Ne parliamo oggi col professor Alberto Albanese, responsabile dell'unità operativa di neurologia all'ospedale Humanitas. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno, buongiorno. Professore, la diagnosi di Alzheimer potrebbe passare dalla retina e questa è la possibilità offerta in realtà da una sperimentazione su 63 individui a rischio di Alzheimer che è stata presentata al meeting annuale dell'ARVO, che è l'Associazione per la Ricerca sulla Vista e Oftalmologia, che è in corso a Seattle. Professore Albanese, lei sì, che cosa ne pensa? Sì, è stata presentata da una giovane oculista, quindi questo è molto interessante. Si tratta, hanno combinato una tomografia ottica tradizionale che si usa in oculistica, un OCT, con una metodica in fluorescenza per guardare la luminescenza emessa da certi accumuli nella retina. La retina è una parte del cervello, certo. Estroflessa in avanti verso l'occhio, quindi è a tutti gli effetti tessuto nervoso. E hanno visto che questo dato di fluorescenza si correla con l'accumulo di beta amiloide visto con la PET nella tradizionale PET del cervello, e quindi hanno pensato che questo possa essere una finestra attraverso cui guardare dei segni iniziali in maniera molto più facile, molto più raggiungibile di possibile sviluppo di Alzheimer. Naturalmente è molto interessante e ovviamente è riservato ai casi in cui ci sia un sospetto, perché certo. Non possiamo pensare di fare a tappeto questa metodica in tutte le persone, quindi rimane sempre il punto di partenza di un sospetto clinico al quale si può dare seguito magari con un esame meno invasivo e più facilmente gestibile come questo. Allora, la ricerca è in corso, quindi speriamo, professor Albanese, che arrivino dei risultati e che permettano quindi di diagnosticare precocemente questa forma di demenza. In media adesso, al momento, quanto tempo passa dai primi sintomi alla diagnosi e che cosa si potrebbe fare per anticipare un po' i tempi? Ma è chiaro che nei soggetti a rischio il sospetto avviene prima e quindi la diagnosi è più immediata, più precoce. Persone che hanno familiarità o che hanno una storicità di qualche tipo, in portatori di geni, eccetera. E ovviamente nella popolazione più ampia dipende molto dall'attenzione che hanno le persone. A volte ci sono dei falsi timori che non hanno riscontro da parte nostra, altre volte ci sono delle persone che lentamente hanno una perdita di funzioni. È chiaro che la consapevolezza è molto importante, e capire quali sono i primi fastidi, i primi disturbi è sicuramente un aspetto importante che può aiutare la diagnosi. Ovviamente la diagnosi precoce è sempre più chiave perché ci sono delle aspettative terapeutiche. E certo, più prima si interviene meglio le terapie funzionano. Sì, ora sono ancora un po' sperimentali, alcune però, di quelle innovative, però si va verso ipotesi molto più concrete e che quindi verranno sperimentate in futuro certo. Quali per esempio terapie immunitarie eccetera, che quindi possono in effetti aprire delle porte, quindi essere pronti con delle diagnosi precoci significa essere pronti anche alle terapie. Grazie professor Albanese per essere stato con noi, buona giornata. Grazie. E nell'attesa che arrivino i risultati della ricerca per arrivare precocemente a diagnosticare questa forma di demenza, ci occupiamo della nostra retina. In linea con noi abbiamo il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Partiamo e parliamo dalla parte nobile dell'occhio, che sembrerebbe essere un laboratorio ideale in cui poter monitorare quello che accade ai vari distretti dell'organismo. Mai come ora la ricerca dimostra che l'occhio è lo specchio della nostra salute. Ma quali altre malattie possono essere diagnosticate attraverso gli esami oculistici e in particolare attraverso quelli retinici? Ma tante, tra quelle più importanti, diciamo, lo ricordiamo due. Sì. Il diabete e la pressione alta, l'ipertensione arteriosa, che sono due delle malattie più diffuse oggi nel mondo. Ricordo solo, giusto per chi non l'avesse notato, che è stato pubblicato 15 giorni fa su Lancet il più grande studio epidemiologico mai concepito al mondo, che ha compreso 4,4 milioni di partecipanti, quindi una cosa di una dimensione enorme, che era uno studio in cui hanno messo insieme vari studi epidemiologici. Comunque, per farla breve, questo studio dimostra che dal 1980 al 2014 il diabete è esploso. Sì. Esploso e raggiungerà un valore. Si parla di una pandemia, vero professore? Una pandemia. Proprio perché i numeri. Che con i numeri che ha è già evidente, farà crollare i sistemi sanitari di tutto il mondo. Non c'è sistema sanitario nel mondo che sia in grado di affrontare questa pandemia. Chiusa la parentesi. È una cosa a cui bisogna però prestare attenzione e alla quale bisogna dare delle risposte, perché se non riusciamo a dare queste risposte salteremo per aria tutti. Certo, e quindi la prevenzione diventa ancora più importante. Assolutamente. È un problema di cuore inteso come salute, ma anche di denari. Assolutamente. E ritorna un po' l'anima della nostra trasmissione. Professore, sì. Torniamo alla retina. Ecco, quindi che... dicevo diabete, ipertensione. Uno, diciamo, la nostra fortuna di oculisti è che tu guardi dentro l'occhio. E quando tu guardi attraverso la pupilla dilatata vai a guardare la membrana interna dell'occhio, che è la retina. La retina, come diceva giustamente prima il collega neurologo, è un'estroflessione del cervello. Quindi la condizione fortunata che noi oculisti abbiamo è rappresentata dal fatto che tu puoi vedere in vivo all'interno della retina come sono fatti i vasi di piccolo calibro, cosa che non puoi fare da nessun'altra parte dell'organismo. Per cui in pratica è una finestra sul sistema vascolare dell'occhio, ma rappresentante tutto il sistema vascolare dell'organismo e in particolare quello del cervello, per cui quello che noi vediamo a livello dei vasi retinici corrisponde a quello che sta succedendo a livello dei vasi cerebrali e in generale a livello di tutto l'organismo. Se uno è iperteso... Voi riuscite a fare diagnosi, come fare diagnosi di diabete, di ipertensione e di diabete, quindi l'oculista attraverso la retina può arrivare a formulare queste diagnosi. Ma non solo diagnosi, anche controllare come vanno le cose, come si sta curando il paziente, quanto sono efficaci le terapie, è la finestra sulla salute del sistema vascolare. Professore, gli ultimi minuti, vorrei che lei ci aiutasse a mandare dei messaggi sull'importanza di questa parte così nobile dell'occhio, che dobbiamo proteggere con attenzione, perché come faremo come un'opera d'arte, perché se danneggiata non può essere sostituita, no? Allora, anche ha ragione. È vero, se la retina si danneggia, noi tendenzialmente non sempre riusciamo a rendercene conto, anche perché no, abbiamo due occhi, quindi i primi sintomi, però è importante arrivare. Allora, professore, poi noi sulla nostra pagina abbiamo dato un aiuto, grazie a voi, ai nostri ascoltatori, per fare una sorta di autotest. Ci racconta rapidamente quali sono i segnali che ci avvertono che allora, la nostra retina potrebbe avere... Di essere il più essenziale possibile. Grazie. Ci sono due sintomi che sono importantissimi, sono vedere meno e vedere storto. Se un paziente dovesse un giorno avere questo tipo di sintomatologia, vedere meno e/o vedere storto, si faccia vedere subito da un oculista, perché in genere questi sintomi sono manifestazione di un problema alla retina, in particolare alla parte più centrale della retina, che è la più importante, la macula. Quel reticolo di Amsler, quella griglia di Amsler che lei ha messo sul sito di Radio 24, è il sistema più banale, più semplice per verificare se questi sintomi in una forma lieve sono già presenti e uno non se ne rende conto. Bisogna chiudere alternativamente uno dei due occhi, guardare il punto centrale di quella griglia e poi segnare con una penna gli eventuali tratti, gli eventuali quadratini che non appaiono perfettamente rettilinei. Se ce ne sono alcuni che non sono rettilinei, beh, quello è il momento in cui dire è il momento di farsi vedere ad un oculista. È un sistema grossolano, se certo. Si vuole, un po' superficiale se si vuole, ma sicuramente un passo enorme in avanti rispetto a non far nulla o, peggio ancora, a non farsi vedere mai da un oculista. E noi siamo liete di poter dare queste indicazioni ai nostri ascoltatori, perché crediamo nella prevenzione, soprattutto ciascuno di noi deve fare la sua parte. Professor Bandello, noi la ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a lei, perché fa sempre un ottimo servizio, secondo me, nel campo della prevenzione delle malattie. Grazie, buona giornata. Grazie a tutti voi. Presenti 564, votanti 562, astenuti 2, maggioranza 282, hanno votato sì 369, hanno votato no 193, la Camera approva. Di quale norma stiamo parlando? Naturalmente anche a cuore denari non si poteva trascurare la legge Cirinna, la nuova disciplina sulle unioni civili. Come sapete, con questa norma, per la quale si è discusso tanto, lottato, ieri abbiamo avuto anche un pesante intervento del Cardinale Bagnasco, il legislatore ha riconosciuto ai conviventi di fatto una serie di diritti, oltre alla possibilità di stipulare veri e propri contratti di convivenza per regolare i rapporti di natura patrimoniale. Le implicazioni della legge sono tante, noi oggi vorremmo fare un piccolo focus sul tema casa e dintorni. Cosa cambia rispetto ad una convivenza o a un matrimonio se la coppia unita secondo i nuovi termini dell'unione civile compra casa? Che ripercussioni nell'ambito mutuo? Intanto volevamo anche segnalare che questo approfondimento è stato fatto dai portali mutui.it e facile.it in un pezzo che stiamo veicolando anche noi sui nostri social, un pezzo di un'amica di Radio 24 che è Floriana Luini. Si parla di unioni civili, coppie di fatto, casa e mutui, dalla cointestazione al diritto alle detrazioni fiscali fino anche alla successione, quindi un pezzo molto completo dal quale abbiamo noi anche noi tratto qualche spunto. Però per farci aiutare un po' a chiarire alcuni temi importanti rispetto a queste novità, siamo ritornati a chiedere aiuto ad un notaio, Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Notaio Roveda, ben ritrovato a Cuore Denari, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. E naturalmente ascoltatori che se vogliono possono anche farci delle domande all'800 24 00 24, chissà quante coppie sono interessate a queste novità. Allora, notaio Roveda, prima specifica da fare: la legge Cirinna disciplina le unioni civili e la convivenza di fatto. È importante questa specifica ai fini di un'intestazione di una casa che viene acquistata o ai fini dell'intestazione di un mutuo? E direi proprio di sì. Una premessa da fare è che la legge Cirinna è figlia, oltre che delle difficoltà a scrivere di una legge che sono proprie di tutte le leggi, anche di una tensione morale e sociale di cui abbiamo letto tutti, e che quindi il prodotto legislativo è ancor più difficile da decriptare rispetto al solito, e quindi oggi si possono dare delle prime indicazioni e poi bisognerà vedere gli interpreti, i giudici cosa diranno di certe fattispecie. Intanto noi commentiamo quello che abbiamo, notaio. Esatto, e in maniera molto schematica: unione civile e convivenza di fatto sono concetti diversi, profondamente diversi. Apparentiamo l'unione civile al matrimonio, seppur contratta da persone dello stesso sesso, apparentiamo le convivenze di fatto, al di là di certi diritti minimi, ad un rapporto contrattuale. Ai fini di intestazione della casa, naturalmente, le regole sono diverse. Le regole di chi acquista una casa legata da un'unione civile sono simili a quelle di chi acquista essendo sposato, cioè il regime ordinario è quello della comunione dei beni, ma si può pattuire con una convenzione tra i coniugi o tra le persone unite da unione di fatto, che il regime sia quello della separazione dei beni, quindi acquisti in comune o acquisti anche separati o volontariamente, certo, in comune. La regola invece per le convivenze di fatto è una regola opposta: normalmente l'acquisto è un acquisto separato, si può pattuire invece un regime simile a quello della comunione dei beni. Allora, notaio, stabilire come gestire la compravendita di una casa significa regolare una parte dei rapporti appunto patrimoniali di queste coppie. Molti aspetti, lei ce lo diceva, matrimoni e unioni civili sono uguali, apparentati, lei ha detto, appunto differenti in molti altri aspetti, capitolo a parte appunto per le convivenze. Vale la pena fare un riassunto per sommi capi della regolazione appunto dei rapporti patrimoniali a seconda che li debba regolare una coppia unita nelle regole del matrimonio, una coppia unita nelle regole delle nuove unioni civili, una coppia unita nella regola della convivenza di fatto? Sì, certo, lo accennavamo prima. La casa è il momento patrimonialmente più importante della vita di una coppia, è dove la maggior parte dei risparmi e la maggior parte del debito di una coppia finisce, quindi attenzione, molta attenzione al momento dell'acquisto della casa. Per quanto riguarda i coniugi uniti da un regolare matrimonio, naturalmente l'aspetto principale è quello della cointestazione o dell'intestazione a uno solo dei due, a seconda che ci sia il regime della comunione dei beni, dove la cointestazione è necessaria, o quello della separazione dei beni. Stessa cosa per le unioni civili. Da un punto di vista casa, l'unione civile è molto molto simile al matrimonio. Nella convivenza invece la pattuizione può essere più complessa e deve supplire ad un'assenza di regole di legge, e quindi può essere molto opportuno che oltre a pensare alla cointestazione si pensi fin dal momento dell'acquisto anche al momento della cessazione della convivenza, per sapere che fine farà la casa nel caso ci siano figli o nel caso non ci siano i figli. Adesso magari faremo qualche ipotesi, però le chiedo, nel contratto di mutuo oppure nel rogito, che è il documento finale che attesta il passaggio di proprietà di una casa, quindi proprio l'atto formale della compravendita, cosa viene indicato nei contratti relativamente alle caratteristiche del nucleo familiare? Occorre indicare se chi sta comprando appartiene ad una coppia di sposati, di uniti civili, di conviventi, notaio? La legge Cirinna nulla dice, negli atti relativi a coniugi regolarmente sposati si specifica il regime patrimoniale, se comunione o separazione dei beni. Io ritengo che sarà molto opportuno specificare anche per le persone unite civilmente o per i conviventi l'eventuale sussistenza di un regime patrimoniale. Non ne abbiamo ancora fatti, ci stiamo ragionando e stiamo facendo una formazione, e la legge di tre giorni fa, pochi giorni, settimana scorsa, quindi non si sono quindi ancora anche voi, esatto, cercate di capire come poter un'attività di studio e di formazione di questa legge che è particolarmente difficile. Però insomma il notaio generalmente dà tutte quelle indicazioni alle coppie, non solo alla propria clientela, appunto di massima cautela. Adesso cercheremo di capire anche quali raccomandazioni fornirete alle coppie che decideranno appunto di mettersi insieme secondo le nuove regole. Però a proposito del mutuo, tra gli uniti civili, conviventi, chi detrae gli interessi passivi del mutuo, notaio? Nel caso di mutuo cointestato lo detraggono entrambi i coniugi o entrambi gli uniti o entrambi i conviventi. È possibile anche che ci sia una differenza tra intestazione della casa e intestazione del mutuo. Teniamo a mente che la Cirinna nulla dice di aspetti fiscali e che quindi dobbiamo ragionare per analogie. E io ritengo, faccio una previsione, spero di non essere smentito, che per le unioni civili il fisco applicherà le stesse regole degli che sposati. Applicherà per gli sposati, e che per i conviventi invece sarà necessario porre un attimo più di attenzione, perché c'è proprio una sostanziale differenza tra i due regimi. Notaio Roveda, se la coppia unita civilmente si separa mentre è in corso il pagamento di un mutuo, che cosa succede, e cosa succede invece se si separa una coppia di conviventi di fatto? Se si separa una coppia unita civilmente o due coniugi, la regolamentazione del proseguimento dell'estinzione del debito andrà fatta in sede di separazione e poi confermata in sede di divorzio. Generalmente lì c'è una parte civili, invece c'è un passaggio solo. Se si tratta di conviventi di fatto, o si è regolamentato al momento della stipula di un patto di convivenza, oppure bisogna regolamentarlo alla fine della convivenza. Se il litigio è così importante per cui non si riesce ad arrivare ad un accordo, si prosegue con secondo quanto previsto dal contratto di mutuo. Cioè il contratto di mutuo stipulato da due persone prevede un'obbligazione solidale, si dice, cioè entrambi sono dovuti e responsabili per l'intero, e poi hanno un diritto di rivalsa nei confronti di colui che eventualmente non abbia adempiuto al pagamento. Infatti. Allora, adesso dobbiamo fermarci, abbiamo la borsa, poi notaio, ritorniamo con lei, ci darà qualche consiglio utile da rivolgere alle coppie che vogliono unirsi sia secondo le nuove regole della nuova unione civile. A che cosa devono pensare prima di acquistare casa, magari quali punti di tutela reciproci devono avere bene in testa i diretti interessati, magari è il caso di mettere anche qualche cosa nero su bianco, e soprattutto questa indicazione vale forse, visto che la nuova unione civile è abbastanza apparentata, come diceva lei, al matrimonio, forse la regola di mettere qualche cosa nero su bianco vale di più per i conviventi di fatto. Parleremo anche di che cosa succede nel caso in cui la casa sia in affitto e non è comprata, quindi non ci sia un mutuo in ballo, e poi che cosa succede se il proprietario della casa, dei conviventi o dei coniugi che sono insieme secondo le nuove regole dell'unione civile, se il proprietario appunto della casa viene a mancare. Ancora qualche indicazione dopo la legge Cirinna, intanto adesso andiamo alle indicazioni di borsa. State ascoltando un programma offerto da Camorriste, dal 24 maggio su Crime Investigation, Sky, canale 118. cuore e denari. Eccoci ritrovati a Cuore e Denari, naturalmente approda anche la legge Cirinnà, stiamo cercando di capire i nuovi conviventi di fatto o i nuovi uniti civili, perché qualche notaio sul Sole 24 Ore li ha chiamati anche così, come devono disciplinare i rapporti patrimoniali, soprattutto per tutto ciò che attiene al mondo casa. Stiamo facendo un po' di chiarezza questa mattina, per quello che ne sanno anche loro, con il presidente del Consiglio Notarile di Milano, Arrigo Roveda. E allora, se volete ancora un paio di minuti di tempo per intervenire in diretta all'800 24 00 24, stupisce un po' la domanda dell'ascoltatore Nicoletta che chiedeva: non ho capito la differenza fra matrimonio e convivenza di fatto. Sì. Mi sembra abbastanza, sì, almeno su quella abbastanza chiara, e non doveva intervenire la legge Cirinnà per notaio Roveda, mi pare. Direi che avevamo questa nozione già da prima. Allora, senta, certezza è una, era esatto, questa. Eravamo rimasti in sospeso, allora le volevo chiedere questa serie di consigli utili, molto pratici ai nostri ascoltatori. Allora, una coppia che vuole unirsi secondo la nuova unione civile, a cosa deve pensare bene prima di acquistare casa? Quali punti di tutela reciproci deve avere bene in testa e magari mettere nero su bianco? Stessa cosa per una coppia che vuole vivere secondo le regole della convivenza di fatto. Notaio. Allora, un punto da chiarire subito è che il patto di convivenza è riservato a chi non è sposato e a chi non è unito con un'unione civile, perché la legge dice che sono nulli e quindi non validi i patti di convivenza stipulati da coloro che hanno contratto, che sono uniti in unione civile. Quindi, da un certo punto di vista, è impossibile mettere nero su bianco per coniugi o uniti civili, come sono stati chiamati con questo orrendo neologismo. Mettere nero su bianco è possibile per chi convive di fatto, perché lì non è la legge a dettare le regole, ma è il contratto, mentre per gli altri è la legge che detta le regole, il contratto non può derogare. Quindi, prima di acquistare casa, chi è sposato, chi è unito civilmente, deve sostanzialmente pensare ai vantaggi e svantaggi di una cointestazione, di un'intestazione ad uno solo delle due persone, o a una intestazione secondo diritti o quote diverse a seconda delle contribuzioni o a seconda delle, diciamo, pianificazioni successorie. Mentre per la convivenza di fatto è possibile mettere nero su bianco le regole che si seguiranno per i futuri acquisti immobiliari, anche se non sono in procinto di essere effettuati. Andiamo ad una situazione che naturalmente speriamo non si verifichi mai per nessuno, però e poi sono invece circostanze della vita che immancabili dobbiamo affrontare. Allora, coppia di uniti civili, coppia di conviventi di fatto, viene a mancare in entrambe le situazioni il proprietario della casa di comune residenza. Cosa succede al superstite? L'unito per quello civile, che riguarda la casa, l'unito naturalmente civile è equiparato quanto ai diritti successori al coniuge e quindi deve sentirsi a tutti gli effetti come se fosse il coniuge. Per quanto riguarda la casa, invece, c'è una regola che, a prescindere dalla stipulazione di un patto di convivenza, si applica ai conviventi di fatto, anche non stipulanti. Questa regola è che il convivente ha diritto di continuare ad abitare nella casa di vita residenza per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza, se la convivenza è durata più di 2 anni, ma non sopra i 5 anni. Il minimo di questo diritto ad abitare sale a 3 anni nel caso in cui ci sia un figlio con delle disabilità, figli minori o disabili, un figlio minore o un figlio disabile. Notaio Roveda, prima di salutarla, che cosa dobbiamo sapere invece nel caso in cui l'abitazione in questione che condividano i conviventi civili o i conviventi di fatto, gli uniti civili, sia in affitto e non comprata? Qui la legge Cirinnà ha recepito un orientamento della Corte Costituzionale che, secondo il quale, già oggi chi il convivente di fatto ha facoltà di succedere nel contratto di locazione. E questo è quanto va saputo, va trasmesso ai nostri ascoltatori interessati? Non dobbiamo avere informazioni in più? In caso di locazione, in caso di morte del proprio convivente, c'è diritto ad andare avanti. La legge Cirinnà, peraltro, prevede anche l'ipotesi di assegnazione di alloggi di edilizia economico popolare. Su questo punto va ricordato qualcosa di preciso? Sì, anche qui il COVID è uno di quei diritti minimi di cui la legge parla a prescindere dalla stipulazione di un accordo di convivenza, per cui anche nell'ipotesi di assegnazione di diritto economico popolare c'è un diritto del convivente a succedere al defunto. Notaio Roveda, noi la salutiamo. Mi stavo chiedendo se già qualche coppia interessata a queste novità fosse già venuta a trovarla nel suo studio, che tipo di indicazioni sta dando, su quali punti raccomanda di fare particolare attenzione. Noi abbiamo fatto il focus sulla casa, l'abitazione, il mutuo, ma in realtà lei che cosa suggerisce di tenere particolarmente a mente rispetto a questi nuovi istituti dei quali parliamo, che sono molto importanti? Sono già venute per esempio delle coppie di omosessuali a chiederle informazioni per il loro rapporto? Non dopo la Cirinna, prima della Cirinna, molti, certo. E l'aspetto, oltre a quelli che abbiamo evidenziato oggi, che più preoccupa, che preoccupava prima le coppie omosessuali, che più preoccupa oggi le coppie di conviventi di fatto, è la regolamentazione successoria. Lo strumento del testamento è fortemente consigliabile per chi convive e vuole lasciare dei diritti ereditari al proprio convivente, perché in assenza del testamento invece il convivente rischia di trovarsi sprovvisto di qualsiasi minima tutela, tranne quella limitata del diritto a continuare ad abitare nella casa di residenza di cui abbiamo parlato. Insomma, notaio, c'era tanta tensione a questa regolamentazione. Sappiamo. C'è stato un periodo in cui si è detto: beh, stiamo in attesa di vedere cosa succede con la legge Cirinna. Oggi è opportuno che chi vuole affrontare questi problemi la legge la conosca bene. Notaio, grazie per essere stato con noi. Se appunto andando avanti con l'interpretazione della nuova norma, poi l'applicazione pratica dovesse trovare delle cose interessanti, ce le faccia sapere che noi le racconteremo volentieri dal nostro microfono ai nostri ascoltatori. Buona giornata. Sicuramente grazie sarà molte. Così. Buona giornata a tutti. Grazie. Sono un cellulare un po' invecchiato, chiuso in un cassetto solo e con lo schermo un po' graffiato e il caricatore rotto, mi hanno spento. Ha fatto notizia in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, l'iniziativa lanciata dal sindaco di Vigonza. Siamo in provincia di Padova, non siamo ancora andate lì. No, esatto, Deborah. Chissà come me non c'è ancora nessuna prepara la valigia. Nessuna iniziativa. E allora, questo sindaco ha pensato di indire un concorso per le scuole medie, sfidando i preadolescenti a compiere un'impresa di non poco conto. Chi riesce a stare senza smartphone per una settimana vince una gita a Gardaland. Da lunedì il comune naturalmente ha fatto le cose per bene, ha ritirato gli smartphone con tanto di SIM card attiva a tutti i ragazzi che hanno deciso di partecipare a questa sfida, e per gli studenti che riusciranno a rispettare questa, possiamo chiamarla dieta disintossicante, una detox però dal telefono. Così l'ha ribattezzata proprio lui, Nunzio Tacchetto, che è il sindaco di Vigonza. Sembra un po' il personaggio, vero, di un racconto. Potrebbe essere un personaggio di un racconto di Andrea Vitale, però Andrea Vitale sta sul lago. Allora, il premio sarà appunto questa gita tutta a spese del comune. 7 giorni senza smartphone valgono una gita a Gardaland. Siamo rimasti molto colpiti, ne ha parlato anche Gianluca Nicoletti. Sì. Soprattutto perché anch'io mi sono chiesta, ma io come riuscirei a stare senza smartphone? Per quanti giorni? La detox la dobbiamo fare noi, altro che i nostri ragazzi. E che cosa dovrebbero propormi? Ma la domanda che ci facciamo oggi è, ma insomma, i premi, barattare, insomma, mediare con i nostri figli, con gli adolescenti soprattutto, che hanno, sai, vivono quel periodo un po' dove devi trattarli sempre un po' con le pinze. Respingenti, ecco. È utile, non è utile, un autogol? Allora, intanto voi provate, iniziate a chiamarci o a scriverci per sapere cosa ne pensate, se siete riusciti anche voi a stare senza smartphone per un po' di tempo, 6 ore, un giorno, nel weekend riuscite a spegnerlo, come riuscite a condurre le trattative con i vostri figli, utilizzate minacce, premi, che cosa ve ne sembra di questa iniziativa del sindaco di Vigonza, una gita in cambio di questa dieta disintossicante? Il nostro numero verde è a disposizione, ma soprattutto in linea con noi c'è il nostro Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Alberto, questa notizia colpisce tanto, non solo i genitori e gli adulti in genere, no? Conviventi, sposati, abbiamo parlato con Deborah, no? Delle unioni civili di casa, eccetera. Qua sugli adolescenti, anche chi non ha figli esprime, no? Dei giudizi, dei pareri, c'è sempre il nipote, il figlio dell'amica che insomma ti gira per casa. Alberto, secondo te perché questa notizia? Perché è solamente strano, un po' inusuale, o in realtà c'è dell'altro dietro a questa proposta che ci alluzza? Che, che da una parte si fa proprio vedere una sfida educativa che il sindaco lancia per la sua comunità e per la sua città, ma credo che ogni genitore ha quotidianamente nella propria famiglia e nella propria casa. Cioè, credo che lavorando con i genitori, in questo momento gran parte della negoziazione educativa e della regolamentazione degli adulti abbia a che fare proprio con l'uso delle tecnologie da parte dei figli. È un uso massiccio, intenso, a volte anche molto positivo, no? Genera contatti, fa conoscere nuove persone, fa esplorare nuovi territori, ma i genitori si rendono davvero conto che spesso i figli non hanno una capacità di autoregolare il loro utilizzo, e quindi questo utilizzo impatta in modo molto forte, per esempio, l'esperienza dello studio, ma anche impatta in modo molto forte le relazioni familiari. Uno è a tavola e l'altro dovrebbe. Allora, Alberto, ti fermo perché dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Un ascoltatore ci scrive via WhatsApp: sembra che per voi sia indispensabile l'uso dello smartphone. Non è proprio indispensabile, ma ci stiamo, almeno io, Deborah ci racconterà cosa ne pensa, io mi rendo conto che stanno invadendo sempre di più la nostra vita, e io quando esco controllo sempre di avere il telefonino, e se non ce l'ho ritorno, perché può sempre servire. Io invece ho la malattia delle mail aziendali di lavoro, anche la sera dalle 9 in avanti, che è veramente quanto di più deleterio esista per la propria vita personale, per cui lo riconosco, ma purtroppo cado in errore. Allora, e già ti prego. E non abbiamo neanche il gene. Mi dai la medicina. Sì, e non abbiamo neanche quel gene della pelle chiara, dei capelli rossi che sembra fare bello. Vabbè. Ma abbiamo le informazioni sul traffico. Voilà. Cuore e denari. Siamo tornati insieme, ultimi minuti di Cuore Denari, avete ancora tempo per intervenire, per raccontarci un po' che cosa ne pensate di questa sfida che ha lanciato il sindaco di Vigonza. I ragazzi, state una settimana senza smartphone, vi portiamo a spese del comune a Gardaland. Ne stiamo parlando con Alberto Pellai, perché dietro questa c'è una sfida, ma noi vogliamo anche chiederci due cose. Essenzialmente, quanto tempo noi o i nostri figli, i ragazzi che frequentiamo, insomma, che girano per le nostre case, riusciamo a liberarci, a staccare un po' la spina e quindi non essere sempre connessi, e quanto ci costa fatica nel caso, e poi soprattutto il fatto dei premi, premiare i ragazzi, barattare con loro, se fai questo, Deborah nella prima parte di Cuore Denari, così se volete potete riascoltarlo in podcast, ha affrontato il tema delle ripetizioni, no? Adesso le scuole finiscono e quindi se rimani promosso, se riesci a rimediare la materia, ti prometto, vado. Alberto, allora, intanto si è acceso un dibattito su WhatsApp dal messaggio che ho letto dell'ascoltatore che ci scriveva: sembra che per voi sia indispensabile l'uso dello smartphone, e molti ascoltatori scrivono: allora è indispensabile, anche 3.000 anni fa, 300 anni fa si usavano solo le candele. Insomma, c'è un forte gruppo di ascoltatori che non vogliono tornare a domandarsi se è utile o non è utile, c'è e si fa. Allora, Alberto, a te la parola. Ma credo che effettivamente da una parte non ha senso dirci che era meglio prima, quindi è una grande opportunità, usiamola bene. Dall'altra parte credo che come genitori sia davvero importante aiutare i nostri figli a prendere il meglio dalle tecnologie e a non essere travolti invece da tutta una serie di problemi collaterali che ne possono derivare. Secondo me il sindaco ha in realtà poi puntato su un aspetto di socialità reale, cioè ha fatto un'azione non su un singolo ragazzo, ma sulla comunità dei ragazzi che abitano nella sua città, e quindi io credo che lì gli obiettivi siano due: da una parte insegnarvi a stare un po' anche senza, imparare a vedere che si può vivere anche senza, che è un messaggio molto utile per far vedere che si può generare dipendenza dall'utilizzo di queste cose, cioè quando non se ne riesce a fare a meno. Sono davvero tanti i nostri figli che vanno a scuola la mattina e non dimenticano mai il cellulare, e poi magari invece hanno dimenticato il compito in classe che andava firmato, il libro di testo che era necessario, il vocabolario di latino. Allora significa proprio che hanno dentro una scala di priorità che non è funzionale alle loro priorità educative di quel momento. Il secondo aspetto, credo che poi anche il premio sia molto bello, cioè se riuscite a stare in una zona sociale della vita reale e a vincere questa fatica di una socializzazione tutta virtuale, fate una cosa nella vita reale tutti insieme molto divertente. E quindi io su quella, sul lancio che ha fatto il sindaco lo trovo molto positivo. Molto positivo. Ecco, ma Alberto, usare un premio, l'utilizzo del premio come incentivo a perseguire un obiettivo, no? Adesso stacchiamoci dallo smartphone, prendiamo spunto proprio da questa idea del nostro sindaco, ma ci sono, no? Vai bene a scuola, prendi 8 a scuola, ripari la materia, torni a casa entro l'ora stabilita, oppure sto parlando di adolescenti, ma i premi e i baratti si fanno anche coi bambini più piccoli. Sì, ma si fanno anche con gli adulti, se tu ci pensi, quando un adulto ha un incentivo salariale rispetto a raggiungere degli obiettivi nel suo luogo di lavoro. Vedi, questo l'ha detto più per te, Deborah. Per legare il cuore con i denari. Se fai la brava ti pago una bella rata del mutuo. Mi piacerebbe questo baratto. Dai, potresti se faccio la brava, se sto a dieta per un mese. In generale direi che il premio in termini psicologici corrisponde proprio alla regola del rinforzo positivo, cioè una variabile che noi introduciamo nel sistema relazionale per far sì che un comportamento che è molto faticoso, molto complesso oppure che è innovativo possa avvenire di più, dando una motivazione che in qualche modo è estranea, no? Io se ti do un premio, il premio non è correlato al comportamento che ti sto chiedendo, ma allo stesso tempo sarà per te una motivazione in più per sostenere quella fatica. Con Senti, ma ci sono delle regole, ci sono delle indicazioni perché il premio funzioni e sia fatto per bene? Perché poi se tu magari ci dai due dritte, io vorrei poi negli ultimi minuti parlare dei premi che dobbiamo secondo me dare a noi stessi, perché tendiamo a darli agli altri, però non ci premiamo mai. Alberto. Ma direi che il premio in qualche modo deve essere congruente con la tipologia di sforzo che stiamo facendo fare alla persona, per cui non deve essere troppo esagerato, ma non deve essere anche troppo limitato, cioè deve essere una cosa che viene negoziata all'interno della relazione. E poi non lo concederei per una sola prestazione, cioè chiederei al ragazzo di stare in una zona di fatica un po' come la tabella punti che a volte facciamo quando compriamo le merendine e i biscotti, cioè non ti danno il premio quando hai raccolto un punto, cioè gli direi sostieni quella fatica per un tempo significativo, sì. Ecco, proprio come ha fatto il sindaco, non ha detto state un giorno senza. Senti, tu hai parlato di tabella punti, Alberto, e nei forum delle mamme si legge anche che molte mamme di bambini piccoli adottano in età scolare, insomma, adottano questa cosa dei punti, cioè hai rifatto il tuo letto, sei stato educato, hai aiutato a sparecchiare, accumuli dei punti proprio come una tessera punti, alla fine avrai il tuo gioco, il gioco che desideri. Lì molti genitori a volte contestano questa cosa perché dicono il figlio non acquisisce la motivazione reale, utilizza solo la motivazione del punto. Invece inviterei gli ascoltatori a verificare che quando un genitore sa usare bene questa strategia, in realtà si sta alleando con la parte del figlio che intende farcela. Per un figlio è molto bello ricevere il premio, ma è anche molto bello vedere che il suo sforzo, la sua competenza viene proprio riconosciuta. Per i bambini, e molti genitori se ne renderanno conto, il momento più bello non è quello dove riceve il premio, ma spesso è il momento in cui viene segnato il punto sulla sua tabella e viene riconosciuto perciò in modo oggettivo, con un gesto simbolico, lo sforzo che ha fatto, e che l'adulto proprio il rito perciò della tabella alla sera, mettiamo le crocette, è una cosa che ai bambini piace tantissimo, a volte molto più di ricevere il premio. Lì c'è alleanza educativa, allora non c'è solo la voglia di ricevere un premio, ma di essere riconosciuto nel proprio sforzo. Allora, voglio leggervi un messaggio che arriva da Alessandro, un suggerimento da Treviso: con i miei figli ho barattato tempo dedicato allo smartphone e iPad con la lettura di libri. Tanto leggono, tanto giocano e funziona. Ah, però. Allora, Alberto, l'ultimo minuto, facciamo anche, diamo un po' dei premi anche a noi stessi, dai, qualche volta. Dai, questo me lo merito. Assolutamente, quando noi sentiamo che abbiamo delle aree molto faticose nella vita, che ci costano tanto sforzo, spesso darci poi un obiettivo piacevole alla fine, cioè se io ce la farò io mi premio, io mi compenso, è proprio darci quella strategia dove mescoliamo il dovere col piacere e quindi sentiamo che ci meritiamo anche qualche cosa, perché a volte il giudice interiore dentro di noi ci spinge a fare le cose per dovere, ma non ci autorizza mai a fare delle cose per piacere. Anche questa è una coccola, un'indicazione per il nostro benessere. Allora, Deborah, quindi regaliamoci qualche cosa. Intanto adesso noi ci regaliamo un viaggetto. Esatto, al termine di questa settimana dovremo farci un regalone, perché saranno delle giornate abbastanza impegnative, ma siamo contente di viverle, insomma, come sempre. Allora, buona giornata, grazie ad Alberto Pellaia, Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica. Marco Lombardo e Laura Vanossi, i nostri collaboratori. Direi che possiamo congedarci per oggi. Ci sentiamo domani da Rimini Aliti Forum e buona giornata a tutti.